Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno cari amici e benvenuti. Oggi vi voglio parlare di yoga. Se lo state praticando, siete invitati a intervenire per raccontarci se e come vi ha cambiato, meglio, che cosa vi ha permesso di scoprire o di riscoprire. Se ne avete solo sentito parlare, bene, questa è una buona occasione, come si dice, per saperne di più. Qua in studio con me Daniele Belloni, insegnante di yoga. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Daniele, la domanda è apparentemente banale, ma credo necessaria. Che cos'è lo yoga davvero, al di là delle mode, delle semplificazioni, delle commercializzazioni, delle palestrizzazioni? O forse potrebbe essere più facile dire che cosa non è? Potremmo dire sia cos'è sia cosa non è. È un sistema molto antico, nato in India, di fondamentalmente integrazione di corpo e mente attraverso il mezzo del respiro. Questo sistema di integrazione prende diverse strade, quindi ci sono diversi tipi di yoga, forse i nostri ascoltatori sono anche abituati, ormai hanno nelle orecchie yoga di qui, yoga di là, kundalini, ashtanga, power, eccetera, sì, eccetera. La finalità è la medesima, lo yoga, quindi questa unificazione, integrazione delle diverse parti di noi stessi e a livello più elevato di noi stessi con qualcosa che ci trascende. Le vie per raggiungere questa unificazione differiscono. Se state praticando yoga, che tipo di yoga? Perché, come Daniele tu anticipavi, ce ne sono diversi, no? Alcuni puntano di più sul corpo, altri più sulla meditazione. Quindi già nella scelta noi dovremmo sapere che lo yoga ha queste distinzioni, questa grande distinzione. Certamente, e possiamo anche ricollegarci alla prima domanda che mi hai fatto: cosa non è lo yoga? Sì. Lo yoga non è semplicemente un esercizio di tipo fisico, quindi sì, nonostante questo ci sono differenze nella disciplina e chi predilige l'aspetto fisico può trovare stili di yoga che sono perfettamente adatti alla propria attitudine, quindi avremo degli yoga molto energetici, molto dinamici, molto robusti in una parola. Sì. Certamente non dimenticheremo mai, essendo nell'ambito dello yoga, che quella robustezza è finalizzata a comprendere noi stessi, perché altrimenti non è yoga, è ginnastica. Ci sono poi esperienze dello yoga più introspettive, più meditative, più legate all'ascolto di se stessi, che possono essere esperite magari da persone che non hanno un background di tipo sportivo, che non sono versati nell'attività fisica o hanno attitudini di tipo dinamico. Ecco, quindi sapere che ci sono diverse, chiamiamole proposte, chiamiamolo mercato, sul mercato, perché lo yoga anche questo è un grosso business, dagli Stati Uniti all'Europa, ci sono diverse possibilità di praticare yoga, quindi darsi una guardata dentro e fuori, realizzare per cosa siamo più adatti e scegliere lo yoga che è più adatto. Secondo te, che cosa ha permesso ad una disciplina nata in un paese così lontano, non solo geograficamente, dal mondo occidentale, di diventare così famosa e di raccogliere così tanti consensi? È l'intuizione che è alla base dello yoga, quella che prima provavo a esemplificare, cioè questa possibilità di riunificare l'essere umano. Oggi si vive in modo piuttosto disperso e frammentato. La modernità, l'esperienza della modernità, credo sia soprattutto, fondamentalmente, l'esperienza della frammentazione. Quindi il mio corpo è qui, il pensiero è altrove, la mente è altrove, il corpo è qui. Il respiro non si sa dove sia perché è il grande sconosciuto, spesso ne abbiamo perso l'indirizzo. L'intuizione degli antichi rishi, cioè gli antichi veggenti dell'India, che sono costoro che hanno codificato la disciplina, è proprio quella di vedere la possibilità, intravedere, realizzare questa possibilità di tornare uno, di tornare una cosa sola. E questo tornare uno di fondo, ecco perché lo yoga è così di grande successo oggi, anche quando lo si pratica poco consapevolmente. Questa grande intuizione che porta all'unificazione genera il potere di generare felicità. Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione. Mi chiamo Jess. Oggi dovrete seguire il vostro ritmo e ricordate di ascoltare il vostro corpo. Cominciamo in piedi, con le gambe divaricate e le braccia lungo i fianchi. Da qui mettetevi in ginocchio e preparatevi a rilassarvi. Ora apriremo il nostro cuore. Inspirate, allargate più che potete il petto e espirando seguite il soffitto con lo sguardo fino alla parete dietro di voi e raggiungete le caviglie. Dovete riuscire a tenere il torace in alto. Aprite, aprite e respirate. Corpo, mente e respiro. Tre parole, Daniele, che sono intimamente legate tra loro, che si influenzano reciprocamente e d'altronde non occorre essere una yogini per averne la prova tangibile. Pensiamo a quando siamo sotto stress, il respiro si fa corto, avvertiamo una sorta di fame d'aria, il battito del cuore cambia, i nostri muscoli sono contratti, tesi. Quindi lo capiamo che sono queste tre parole sono legate e indicano tre parti di noi che dovrebbero invece essere in armonia. Quello che talvolta ci sfugge è come riportarli in armonia attraverso proprio il respiro. Cioè ci sfugge una tecnica molto semplice che chiamiamo respirazione diaframmatica, che è alla base di tutte le tecniche yoga nell'ambito del respiro e del come stare nelle posture dello yoga, anche in quelle fisiche, anche molto dinamiche, fino alla postura immobile meditativa, come stare. Quindi questa respirazione diaframmatica è, diciamo, il filo rosso che unisce tutta la pratica, dalla dinamicità all'immobilità. Ci sfugge spesso, dicevo, come ripristinare questa integrazione attraverso il mezzo del respiro. La respirazione diaframmatica, se possiamo fare una piccola anticipazione, è fondamentale perché si tratta di muovere in modo armonioso l'area dell'ombelico e dello stomaco in connessione con il respiro. Il che vuol dire che durante l'espirazione quest'area si muoverà un poco rientrando, grazie anche a una attivazione armonica, non tensiva, dei muscoli addominali. Durante l'inspirazione questa attivazione verrà rilasciata, assisteremo a una leggera, armoniosa espansione dell'area dell'ombelico e dello stomaco e avremo ripristinato un'onda respiratoria che è esattamente quella che sappiamo fare benissimo perché nella nostra memoria cellulare, perché da bimbi quando eravamo sul fasciatoio ci veniva benissimo, respiravamo così. Poi sono successe un po' di cose, o come diceva quel mio amico siciliano, tante cose, perché la vita è piena di cose e abbiamo dimenticato il respiro. Che tendiamo a bloccare. Che tendiamo a bloccare è un respiro bloccato, cioè un'area dell'ombelico pietrificata, un respiro che non fluisce, non permette al diaframma, che è veramente questo grande sconosciuto, è il principale muscolo respiratorio, non sappiamo neanche dove sia, come sia fatto, quali siano le sue inserzioni e che lavoro faccia. Ecco, diciamo che però se l'area dell'ombelico è pietrificata, di sicuro lui, il diaframma, non potrà fare un buon lavoro. Se quest'area è mobile, si muove armoniosamente, il suo lavoro, intendo del diaframma, viene notevolmente facilitato. E questa è una serie di ricadute benefiche che vanno dal corpo alla mente. Come facciamo allora a sapere se il nostro ombelico è pietrificato oppure si muove? Basta mettere una mano sulla pancia, sì, o basta provare a respirare come tu ci insegni? Guarda, si può fare... Si possono fare entrambe le cose. Due meglio di uno, soprattutto all'inizio, poi dopo magari c'è meno bisogno quando si è padroneggiata la tecnica. Sì. Si possono, ad esempio, possiamo provocare e aiutare anche, sì, e diciamo così, stimolare i nostri ascoltatori con questo che non è un gioco, ma può esserlo anche, in modo che utilizziamo il corpo appropriatamente, con la mano destra proprio sul centro dell'ombelico, la mano sinistra sul centro del cuore. L'area sotto la mano destra, vale a dire quella ombelicale dello stomaco, con il respiro dovrebbe muoversi con un respiro corretto. Espirando noi dovremmo sentire che rientra un po' verso la colonna. Se non lo sentiamo, facile, contraiamo un po' gli addominali e spingiamo dentro, delicatamente, non creiamo tensioni. Con l'inspirazione sotto la mano sentiamo che vi è una leggera armonica espansione perché stiamo rilassando, rilasciando questa attivazione che è meramente muscolare. Sotto la mano sinistra noi dovremmo avvertire tranquillità, immobilità, solo un eco del movimento che avviene tutto o quasi tutto sotto la mano destra. Respirando così, in modo fluido, continuo, senza pause, fra inspirazione ed espirazione, la nostra mente diventerà così fluida e continua. In linea con noi abbiamo il professor Luciano Bernardi, ordinario di medicina interna all'Università di Pavia. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei, al maestro Belloni e agli ascoltatori. Professore, buongiorno, professore. Ha respirato anche lei? Esattamente, che seguivo il maestro Belloni, infatti, conosco molto bene. Il respiro è vita, lo diciamo tante volte, il respiro però è anche ritmo e cambiando la respirazione si hanno degli effetti anche sull'apparato cardiocircolatorio. Certamente, forse uno degli aspetti più diretti che si possono mettere in evidenza da parte dello yoga. Effettivamente il respiro ha una particolarità unica, cioè da un lato è qualcosa di automatico, quindi noi respiriamo anche quando non ce ne accorgiamo. Dall'altro però noi possiamo modificare il respiro con la volontà, con tecniche diverse come per esempio quelle dello yoga. Sì. Facendo questo noi di fatto andiamo a modificare poi anche dei ritmi che si trovano all'interno del corpo, per esempio il ritmo della pressione arteriosa, il ritmo della frequenza cardiaca e di molte altre componenti del nostro corpo. In questo modo noi possiamo modificare dei riflessi che governano appunto il nostro sistema cardiovascolare e anche il nostro sistema respiratorio. In questo caso si vede che appunto con la respirazione che descriveva prima il maestro Belloni è possibile migliorare quello che è il controllo della pressione arteriosa, e questo è molto utile per esempio ovviamente nell'ipertensione ma anche in altre situazioni patologiche come ad esempio l'infarto del miocardio, dove si ha un aumento importante del tonus simpatico che invece bisognerebbe cercare di abbassare. Attraverso queste tecniche si è visto che è possibile mantenere relativamente basso il tonus simpatico, potenziare il tono vagale, il tono parasimpatico, che si è visto ha un fattore protettivo proprio anche sulla sopravvivenza e abbassare il rischio cardiovascolare, quindi ci sono molti effetti positivi. Quindi vitale e quasi terapeutico, professore. Sicuramente potrei dire, ha no? degli aspetti che contribuiscono alla terapia di queste circostanze, di queste patologie. Certamente ecco, non bisogna fraintendere nessuno, lo yoga non è una terapia sostitutiva proveniente di nessuna condizione patologica. Però con questo non vuol dire che lo yoga non sia utile, anzi è probabilmente estremamente utile. È stato visto che utilizzando lo yoga è possibile ridurre l'uso di farmaci, se non in qualche caso anche eliminarli. Certamente è un coadiuvante importantissimo, ma non solo nel sistema cardiovascolare, ma anche nelle patologie respiratorie, come ad esempio l'asma o la bronchite cronica, perché insegna a respirare meglio, potenzia la muscolatura toracica e soprattutto appunto insegna a utilizzare meglio la muscolatura respiratoria, proprio perché ci dà questa migliore conoscenza diciamo del nostro corpo e quindi questa anche integrazione. D'altra parte siamo fatti di corpo, di mente, di respiro, questi sono i nostri tre elementi. Fulvio, benvenuto, buongiorno. A voi. Buongiorno. In parte avete già risposto. Siamo avanti. Avete già risposto, sì, perché il mio dubbio era sulla respirazione. Facendo yoga da molti anni, uno yoga classico, adesso ho cominciato un power yoga, sì, uno yoga molto dinamico, mi si rimproverava sempre che il momento della stanchezza io praticamente non mi concentravo sul respiro. E non ho mai capito il perché, cioè nel senso che la stanchezza poteva andar via concentrandomi sul respiro. Lei, Fulvio, fa riferimento ad una stanchezza che è tipica, che tutti noi possiamo avvertire lavorando a fine giornata o anche nel cuore del pomeriggio. A quel tipo di stanchezza fa riferimento, vero? Anche, ma non solo. Daniele. Ma io potrei dare una risposta dal punto di vista yogico, poi se il professor Bernardi è ancora con noi potrebbe aiutarci dal punto di vista scientifico. Dal punto di vista dello yoga le sarà stato detto appunto che la stanchezza poteva derivare da uno scarso controllo delle fasi respiratorie, perché nello yoga riteniamo di essere fatti anche di un corpo energetico, non solo di un corpo fisico, chiamiamo corpo pranico, e questo prana, che è l'energia vitale, viene veicolata massimamente, ma non solo, dal respiro. Quindi un respirare in modo appropriato, diciamo che caratterizza la persona, l'essere umano, come equilibrio e distribuzione. Quindi diciamo che l'effetto che lei può avere sentito come stanchezza in relazione a un respiro scorretto, dal punto di vista dello yoga può essere visto come uno squilibrio del sistema sistema pranico, quindi di questa energia vitale che semplicemente non è stata armonizzata durante la pratica dello yoga. Daniele, scusa, prima di dare la parola al professor Bernardi, professore, si prepari, respiri. Ecco, vogliamo prendere spunto, come facciamo abitualmente in trasmissione, dagli stimoli dei nostri ascoltatori per dare delle indicazioni a chi ci sta ascoltando a carattere generale. Quindi noi attraverso la respirazione possiamo un po' sciogliere la stanchezza o, tradotto in modo positivo, liberare l'energia. Certamente. Possiamo ricorrere alla respirazione quindi tutte le volte in cui ci sentiamo un po' in riserva o abbiamo bisogno di un po' di benzina per andare meglio. Il segreto è sempre la respirazione diaframmatica. E come si fa a non fare le pause? A non fare le pause è semplice, ci si determina con la mente a seguire un respiro che sia il più possibile armonioso, privo di pause, equilibrato, fluido, continuo. Per quanto riguarda la gestione, diciamo, dell'energia vitale, certamente la respirazione diaframmatica, come ricordava il professor Bernardi, ha ottime possibilità anche di riequilibrio a livello, ad esempio, nervoso. È chiaro che la stanchezza può venire anche, certo. Dicevo prima, in termini pranici, da squilibri che possono essere visti dal punto di vista nervoso come un'eccessiva attivazione del parasimpatico o magari del simpatico, insomma non c'è equilibrio in queste due branche del sistema nervoso. Esistono poi anche tecniche di respiro che vanno oltre la respirazione diaframmatica, sono tecniche di respiro rigeneranti, dinamiche, che lavorano principalmente sempre a livello proprio dell'area del centro ombelicale, che viene visto nel sistema pranico, nella fisiologia sottile dello yoga, come il centro principale di energia nel corpo umano. Sì, un po' il cuore. Esatto, del nostro sistema energetico. Quindi lavorando in quella zona in modo dinamico, con tecniche appropriate che un insegnante evidentemente può proporre, si riesce a stimolare un surplus di energia e quindi una maggiore vitalità generale. Io, dato che ci sono tanti nostri ascoltatori che mi chiedono come e se ci sono, se si trovano, c'è possibilità di imparare anche da soli queste tecniche di respirazione, perché stiamo premendo l'acceleratore, presentando il respiro, stiamo parlando più di respiro, no, in questo momento che di yoga, perché è comunque, no, uno strumento che arriva allo yoga inteso come equilibrio corpo mente respiro. Io vi voglio ricordare che Daniele Belloni ha prodotto un DVD-ROM dove ci sono proprio le spiegazioni chiare delle tecniche fondamentali di respirazione yoga. E poi una cosa straordinaria che mi piace molto raccontarvi è che in questo DVD, ma soprattutto ce ne parlerà Daniele, loro insegnano una meditazione in pillole. E quindi sapete che io adoro tutte le cose che i nostri esperti ci insegnano e che possiamo fare nostre, portare con noi nella nostra quotidianità. Parleremo anche di queste, ma professor Bernardi, a chiusura del suo intervento, riguardo alla stanchezza, riguardo allo yoga, al respiro e anche alla postura, come, ecco, occasioni di benessere. Poi uno può decidere, noi qua non stiamo facendo una puntata per dire uscite, andate a iscrivervi assolutamente a un corso di yoga, ma vogliamo portare l'attenzione dei nostri ascoltatori su queste tre componenti, no, della nostra vita, con cui che ci danno dei limiti ma ci danno anche delle risorse. Ecco, noi vorremmo utilizzarle come risorse, professore. Sicuramente è una risorsa estremamente interessante. Uno degli aspetti che vale la pena sottolineare per quanto riguarda in particolare la respirazione diaframmatica, che può essere a proposito quando si parlava appunto di stanchezza, di recupero, eccetera, è un'altra proprietà estremamente interessante, è che facendo questo tipo di respirazione che è diaframmatica, lenta e profonda, in realtà si riesce ad ottenere un maggiore ingresso di ossigeno all'interno del sangue, quindi si migliorano gli scambi a livello dei polmoni. E questo sembra abbastanza paradossale, si riesce a ottenere pur respirando quantitativamente un pochino di meno, per cui in pratica si risparmia energia, cioè si paga di meno e si rende di più. Quindi è una tecnica estremamente interessante, tanto è vero che viene utilizzata, abbiamo visto, è stata utilizzata per esempio anche nell'acclimatazione quando si va in alta quota, cioè dove bisogna abituarsi a un'aria povera di ossigeno, e quindi bisogna avere un respiro estremamente efficiente, anche perché in certe condizioni anche solo il fatto di respirare diventa faticoso, e quindi bisogna farlo molto bene. Ecco. Grazie professor Bernardi per essere stato con noi, la saluto, la ringrazio. Daniele? E noi dobbiamo andare, vuoi salutare il professore? Professore, arrivederci, grazie per la sua presenza, è sempre un piacere ascoltarla. E noi andiamo a sentire i mercati e il meteo, torniamo di nuovo qua con pillole di meditazione, con posture. Subito dopo il meteo darò a voi la parola. Essere e benessere. Questo è l'ombelico del mondo. Eccoci di nuovo insieme, portate l'attenzione sul vostro ombelico, stiamo parlando di respiro, ma portate anche l'attenzione su quello che c'è intorno al vostro ombelico. Sì, potete portare anche attenzione su quello che c'è sopra l'ombelico, ad esempio arrivare fino alla fronte, perché nella nostra tradizione di yoga, in quella che io seguo personalmente, spesso ci viene ricordato di mantenere la fronte rilassata. Oltre che a respirare diaframmaticamente, mantenere la fronte rilassata, perché Swami Veda Bharati, che è un grande maestro indiano, dice sempre: se la tua fronte è rilassata ti è praticamente impossibile pensare cose negative. E quindi torniamo all'integrazione del corpo e della mente. Quindi respiri diaframmaticamente, mantieni il più possibile la fronte rilassata e ogni tanto, come ricordavi grazie al DVD, una meditazione portatile, tascabile. Claudio, buongiorno, com'è la sua fronte? Rilassata. Sì. Adesso oggi abbiamo tutti degli ascoltatori che coccolano, hanno già una voce come quella di Daniele Belloni che predispone alla respirazione diaframmatica. Claudio, benvenuto, ci racconti. Grazie. Dopo 10 anni di yoga Iyengar, una persona super emotiva come me è abbastanza fastidiata dai grossi problemi familiari, la mia resilienza è aumentata tantissimo grazie appunto alla capacità che mi ha dato lo yoga di interagire con me stesso quando sono terribilmente stressato. Claudio ci dice yoga, Iyengar. E ci dice Iyengar. È un particolare stile di yoga che si rifà all'esperienza di un grande maestro indiano, appunto Iyengar, che ha proposto uno yoga apparentemente talvolta viene equivocato come uno yoga fisico, molto fisico. In realtà è uno yoga che ha una straordinaria attenzione verso l'allineamento, quindi anche dal punto di vista della pedagogia, dell'insegnamento, delle tecniche, è una ricchezza per tutta la comunità dello yoga, perché questo maestro indiano è stato veramente molto preciso nella descrizione delle posture, e poi viene da una tradizione comunque importante dell'India, e quindi è espressione e interprete di una genuinità della disciplina. Capisco perché il nostro amico Claudio ha trovato grande beneficio da una pratica decennale di questo stile di yoga. Il respiro rilassa, e il rilassamento è proprio alla base dello yoga in tutti i suoi aspetti. Ma Daniele, noi che cosa intendiamo per rilassamento? La mente sgombra o la consapevolezza del corpo? E da che cosa si inizia? Guarda, la mente direi consapevole, la mente che è in grado di guardare dentro, di guardarsi dentro, di guardare prima di tutto il corpo, di osservare il corpo, poi di osservare il respiro come un'onda, come è stato descritto prima per la respirazione diaframmatica, e poi di osservare persino se stessa, in quanto livelli diversi della mente. Quando noi descriviamo un esercizio di rilassamento nell'ambito dello yoga, facciamo riferimento a questa complessità di nuovo dell'essere umano che possiamo scandagliare in modo intelligente dal corpo alla mente. Però lo yoga quindi ci aiuta a vedere, no? A guardare noi stessi e la vita sotto da un altro punto di vista, molto diverso da quello che... A volte il modo in cui noi guardiamo la vita, questa è la mia opinione, posso sbagliarmi, è attraverso, diciamo, il riflesso di emozioni, di stati d'animo. Vediamo la vita e la coloriamo a seconda dell'emozione di cui facciamo esperienza in quell'istante. Ecco, credo che la fondamentale possibilità e anche la speranza che lo yoga ci dà è di fare esperienza della vita, della nostra esistenza, non per come la interpretiamo a seconda dell'umore, ma per quello che è. per quello che è e basta. E quindi in un certo senso aiuta anche a lavorare sulle nostre emozioni. Aiuta a lavorare sulle nostre emozioni. L'ambito emozionale è un ambito molto interessante che ci interessa soprattutto quando approcciamo le tecniche meditative, perché facciamo il conto che ci siamo iscritti a un corso di yoga, sì. Abbiamo esperito tutta la fase fisica, abbiamo anche lavorato intensamente magari con forme di yoga occidentale, ricordavo ora la nostra amica attrice, il power yoga. Sì. Deve arrivare però un momento in cui tutto questo viene vissuto come una sorta di preparazione verso qualcos'altro, perché è evidente che l'esperienza solo fisica non può essere soddisfacente, è evidente che c'è qualcosa che va al di là. Un grande studioso della psiche, del cervello umano, mi diceva una volta: la mia esperienza è che siamo molto più grandi di così. Molto più vasti di così, di come ci vediamo. Quindi arriva il momento in cui vuoi andare oltre, è il momento in cui ti siedi, è il momento in cui stai con il tuo respiro in modo sempre più sottile e intimo, il momento in cui fai silenzio, il momento in cui sei faccia a faccia con la tua mente, perché la meditazione ti porta a conoscere, veramente ti presenta te stesso. È al potere di portarti verso quel centro di coscienza dal quale la coscienza sgorga. In quel momento le emozioni possono esplodere. E cioè, si arriva ad uno stato attraverso lo yoga, attraverso la meditazione, poi ci regalerai una pillola di quelle che tu spieghi nel tuo DVD, che è molto simile a quella a cui si arriva attraverso l'arte e in modo particolare attraverso la poesia, l'antica poesia indiana. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Giuliano Boccali. Il professor Boccali è professore di indologia all'Università degli Studi di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, buongiorno. Professore, parliamo di poesia indiana, ma parliamo di arte in generale, arte, musica. Certamente, arte, musica, poesia e anche alcune esperienze personali aiutano moltissimo a interrompere l'ossessione dei pensieri e degli stati psicologici, cioè sono un aiuto prezioso per acquistare un momento di serenità, di distacco e anche di partecipazione con gli altri e con quello che ci circonda. Il principio sostanzialmente non è diverso da quello dello yoga. Chi pratica yoga sa che il nostro fisico, le nostre emozioni, i nostri pensieri sono in un subbuglio continuo di preoccupazioni, di desideri, di paure. Allora, lo yoga su tutti e tre i piani, fisico, mentale e psicologico, aiuta a calmare, a rasserenare. L'arte, non solo quella indiana e non solo la poesia, ha lo stesso effetto. Se noi seguiamo il filo di versi che amiamo, di musiche che ci toccano, o anche camminiamo in uno spazio suggestivo, profano o sacro che sia, a poco, se non interferiamo, se non ci lasciamo sopraffare, sentiamo che si crea uno spazio di silenzio, uno spazio di contatto con noi stessi. Questo può anche avvenire dipendentemente dall'arte, interrompendo un attimo tutto quel rimuginare di sensazioni e di stati psicologici. Quindi possiamo fare spazio. Professore, lei ieri ci siamo sentiti e lei mi ha detto: a volte basta alzare gli occhi a guardare il cielo. Sì, certo. Ecco, allora regaliamo questa immagine ai nostri ascoltatori, quindi cielo, fronte rilassata, mi raccomando, guardate il cielo, ringraziamo il professor Boccali. Dovrei parlarne prima o poi, tanto vale che usi me. Io non riesco a concentrarmi lì dentro, riesco solo a pensare alla mia stanza da meditazione e a come arredarla. Mi vuoi sfottere? E tu vuoi sfottere me? La stanza da meditazione è dentro di te, mandibola, devi arredare quella. Parli sempre per slogan autoadesivi. Certo, ed eccotene un altro. Devi imparare a scegliere i pensieri allo stesso modo in cui scegli i vestiti ogni giorno. Ecco, questo è un potere che puoi coltivare. Se ci tieni tanto a venire qui a controllare la tua vita, lavora sulla mente. È l'unica cosa che devi controllare. Se non riesci a dominare i tuoi pensieri, sei nei guai per sempre. Io ci sto provando. Ecco, appunto, è questo il problema. Smettila di provarci, arrenditi. Va fuori in giardino e siediti lì. E ferma la tua mente, poi guarda che succede. Perché non lasci che succeda e basta? In linea con noi abbiamo Francesco dalla provincia di Catanzaro. Buongiorno Francesco. Buongiorno a voi, è un piacere stare con voi in diretta, è un piacere ascoltarvi tutti i giorni. Grazie. A proposito di respirazione, io la uso come tecnica per suonare uno strumento a fiato che è la tromba. Mm. Per cui i trombettisti hanno per abitudine di utilizzare la respirazione diaframmatica. Sì. Per me ormai è diventata una respirazione abituale, quindi mi rivedo, mi scopro tutti i giorni che uso il diaframma per respirare. Sì. Volevo sapere, è controproducente questa cosa a lungo andare? Assolutamente no, respiri diaframmaticamente il più a lungo possibile. E sarà felice. Ma però, come trombettista è una cosa che si fa abitualmente. Quindi sarà un trombettista felice. Ecco, sono una categoria avvantaggiata, fortunata. Certo. Abbiamo parlato di respiro, abbiamo parlato di corpo, l'ombelico, la fronte rilassata, la pillola di meditazione. Ci arriviamo solamente attraverso un percorso o possiamo anche provare, un po' come stiamo provando a portare l'attenzione sulla nostra respirazione, sul nostro ombelico, proviamo a capire che cos'è questa meditazione, che ci sembra qualcosa di molto lontano, ma che tu, come i maestri, insegnano deve essere pochi minuti più volte al giorno per diventare, no? Per entrare un po' in sintonia. Ovunque sia possibile in questo momento, se siete seduti, ovunque siate seduti o in piedi, ovunque siate in piedi, magari anche, non lo so, in metropolitana state ascoltando la radio dal dispositivo mobile, perfetto, provate ad allineare capo, collo e tronco, cioè la colonna vertebrale in allineamento al capo, al collo, sentite il rilassamento delle spalle, distendete la fronte, semplicemente portate attenzione al centro dell'ombelico. Sentite la possibilità di fluire con un'onda respiratoria, con l'espirazione lievemente rientrate quest'area ombelicale, attivando in modo armonioso gli addominali, e inspirando rilasciate, lasciate andare, espandete un poco. Ripetete l'operazione alcune volte con l'espirazione rientrate in modo fluido armonioso, con l'inspirazione rilassate, espandete, mantenete la fronte rilassata, sentite il respiro che entra, esce dalle narici e non perdete connessione col vostro centro ombelicale. Grazie Daniele, proveremo tutti a non perdere di vista il nostro ombelico, ma adesso andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Poi torniamo insieme, di nuovo qui, tutti insieme. Essere e benessere. Ed eccoci tornati insieme, giovedì, si parla di emozioni, qui accanto a me Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Ma come potrei definirti, Alberto? Beh, in questo caso... Va bene, medico, psicologo, psicoterapeuta, docente all'Università di Milano, autore di libri. Di testi di canzoni, ma il nostro coach emotivo? Ma in questo caso direi proprio di sì. Oppure uno a cui piace emozionarsi insieme a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Proprio, abbiamo parlato la scorsa settimana della felicità, che nasce anche dalla condivisione, dal nutrirsi della felicità altrui, anche le emozioni che riesci a suscitare. Sì. E poi l'emozione va condivisa, ha senso solo se c'è qualcuno con cui la puoi condividere. Allora abbiamo pensato a una valigia delle emozioni, abbiamo detto che chi non userà le valigie perché non si vuole spostare, non si può spostare. Diventa un comodino, diventa la tasca della giacca in cui infilare qualche idea per fare un piccolo viaggio. Sì, un viaggio nelle emozioni con l'ausilio di musica, di film e di un libro. Ogni settimana tre selezioni. Differenti. Da che cosa ti sei fatto ispirare allora per gli ingredienti della nostra valigia di oggi, sacchetto, beauty case? Oggi l'idea è quella di stare meglio togliendo, quindi una ricerca della felicità un po' come quella della scorsa settimana, ma per sottrazione, quindi sono tre stimoli che ci aiutano a pensare su quanto in una vita che è già piena di tanto, qual è il valore di imparare a togliere qualche cosa. Possiamo già iniziare a toglierci le scarpe noi ad esempio. Pensa che piacere, che piacere straordinario. I'm letting go to see if you'll hold on to me. I'm in doubt of what is thought and what is real. Between the shapes I thought I knew, a guillotine, a pillow with feathers like snow. Questi sono Nicoletta e Kings of Convenience. Mentre li ascoltavi mi dicevi che ti piacevano molto, tantissimo, e li ho scelti oggi perché secondo me è proprio un esempio di musica totalmente in controtendenza, no? Apparentemente, dove senti questa voce veramente che sembra quasi un flauto, strumenti, senti che c'è un violoncello di sottofondo, un contrabbasso di sottofondo, quasi nient'altro, tutto rarefatto. Eppure se tu entri dentro a questo CD, che non è nuovo, ha 2 anni alle spalle, si chiama Declaration of Dependence, fai veramente un viaggio dove il meno che c'è in questo CD in realtà aggiunge tantissimo alla tua giornata. Quindi io questo ve lo consiglio proprio per ritrovare un equilibrio, una sintonia fatta di togliamo cose al troppo che spesso ci affatica. Andiamo all'essenziale. E sull'essenziale è anche il tema che contraddistingue la tua selezione del DVD, di cui sentiamo un breve estratto. Vai avanti, George. Vai e vola via, amico mio. See a few pictures and read articles about, you know, George Harrison, you don't realize that it's actually about yourself. Come succede in un matrimonio, ci si ama, ma non ti sopporti più. Sapevamo che aveva raggiunto il massimo. Alberto, circondarsi di persone che qua sembrano, no, sembra di fare un salto molto lungo rispetto al file musicale. Invece c'è un fil rouge, c'è un filo rosso che lega un po' tutto. Questa che avete ascoltato era la voce, quella in inglese, la voce di George Harrison. Il DVD che vi consigliamo questa settimana è George Harrison Living in the Material World. È un documentario girato da Martin Scorsese che ci mostra forse il più sconosciuto, il meno appariscente, il più appartato dei 4 Beatles. Un viaggio meraviglioso, è stato addirittura definito un capolavoro questo documentario, e secondo me ci fa vedere il percorso umano di un personaggio che nel momento in cui la vita gli ha veramente dato tutto, va in realtà alla ricerca di qualcosa di meno, ma di molto più importante. Quindi tutto un po' il percorso di vita di George Harrison è tenere e trovare un suo equilibrio sospeso tra un mondo che lo mette in prima pagina, un mondo che materialmente gli fa avere tutto, e la sua ricerca di qualche cosa che invece non sta in quel mondo lì e che lui vuole presidiare ad ogni modo. Un bellissimo, bellissimo percorso di vita. Un film che piacerà molto, sono certa, anche all'autrice del libro scelto per questa settimana. E allora io direi di passare, come si dice, dalle immagini alla pagina scritta. Un libro molto particolare, abbiamo l'autrice già in ascolto, ma io non ve la presento prima perché voglio che ascoltiate che cosa ha scritto. Andiamo. Tempo. Sentire sempre il tempo sfuggirmi tra le mani. Ancora prima di diventare mamma, quando ero single e avevo molto tempo per me, mi sembrava comunque di non averne abbastanza. Ho sempre corso, come se una fretta inscritta nel mio corpo mi spingesse perennemente in avanti al massimo della velocità. La vita a impatto zero ha fatto da deterrente al mio parossismo frenetico, alla mia ansia di divorare il tempo, alla mia perenne abitudine di fare 10 cose contemporaneamente e di vivere di corsa. Le giornate hanno subito un grande cambiamento nella scansione dei tempi e delle abitudini. Il responsabile di questa grande rivoluzione della mia vita è stato il contatore dell'elettricità. Gliene sarò per sempre grata. Ogni tanto apro la cassettina dove è riposto e gli mando un bacino. Staccato quello, io ho iniziato ad essere la donna che vorrei essere e che non sapevo di poter essere. La mia vita improvvisamente si è spostata su di un altro binario. Il quotidiano perdeva i suoi rituali. La natura dettava i suoi ritmi e la paura mi stringeva la gola. e non mi stanco. Abbiamo appena ascoltato un estratto dal libro di Paola Maugeri, pubblicato da Mondadori, La mia vita a impatto zero, e Paola è qui con noi. Benvenuta! Mamma mia, che presentazione! Cioè, io dopo giorni sono oggi per fare festa praticamente. Senti, adesso ti sottraiamo subito qualcosa, stai sicura? Senti Paola, grazie, benvenuta. In un libro dove tu racconti la profonda trasformazione della tua vita nel momento in cui tu hai deciso di renderla ecologicamente adeguata, possiamo definirla così? Mi sembra un'ottima definizione, sì. Nel momento veramente me l'ha suggerita, capire... Alberto. Alberto mi aggiunge sempre delle buone definizioni. Noi qua parliamo di sottrazione, ma Alberto è un'aggiunta. Dimmi Paola. Ma sai, ma molto commosso quello che avete detto comunque di George Harrison, perché per carità, non vorrei mai paragonarmi a un essere meraviglioso come George Harrison, però credo che questa ricerca, che poi di fatto mettiamo in moto moltissimi esseri umani in giro per il mondo, di volere andare a capire cosa c'è veramente sotto, cioè andare al necessario, tralasciando il superfluo e poi anche il superficiale, credo che sia il miglior percorso di vita che si possa fare. E a me è successo quando ho deciso che volevo vederci più chiaro in qualche modo, volevo capire che tipo di essere umano io potessi essere, e volevo capire la mia persona dov'era al di là del mio personaggio, no? E capire a 40 anni compiuti fino a dove ero arrivata e fino a dove potevo ancora spingermi. E quindi per me è stata un'esperienza meravigliosa che mi ha cambiato per sempre. Ormai la mia vita è totalmente cambiata e credo resterà su questo binario, anzi voglio andare avanti e approfondire sempre di più. Certo Paola, è una scelta direi un po' estrema, di la verità. Ma no, non no, sei una donna dalle mezze misure. Ma sai, proprio ieri ho postato questa cosa su Facebook dove parlavo appunto del termine estremo. Sai, in questi anni, un po' per le mie scelte alimentari in prima istanza, che poi sono delle scelte etiche e molto ambientaliste, e poi per questo mio amore per l'ecologia, che comunque coltivo da tantissimi anni, anche quando in Italia tutti mi prendevano per quella un po' strana, sono un po' stanca di sentire il termine estremo, perché credo che nella vita non esistano degli estremismi, se di questo stiamo parlando, bensì delle scelte. Poi sai, scelte estreme, di fatto io non le vivo così, cioè nel senso faccio la vita che mi piace, quindi non è una vita di rinuncia, non è una vita di sacrifici, ma è una vita in cui si sceglie altro, perché allora potremmo dire magari George Harrison quando ha deciso quelle cose ha fatto le scelte estreme. Io credo che ci sia un'accezione positiva del termine estremo, come certo. C'è un'accezione positiva del termine militanza, e forse vanno come rivalutati sotto un punto di vista, però è vero, forse non sono una donna delle mezze misure, anche se ti giuro che quello che in realtà invece nella mia vita sto cercando è proprio questa mezza misura, perché credo che l'equilibrio sia proprio nel grigio. Certo. E devo dire Paola che secondo me il tuo libro è molto molto bello, non solo per la prospettiva a impatto zero che racconta, ma per il fatto che tu incroci poi questa tua trasformazione di vita un po' con tutte le storie delle relazioni importanti della tua vita. Intuiamo un po' all'inizio le delusioni amorose, poi tutto ci consente di arrivare a un livello successivo e di evolvere, ma vediamo il tuo percorso di maternità, vediamo un rapporto magnifico con la tua mamma, il recupero del rapporto con il tuo papà, è proprio un racconto della tua vita a impatto zero che diventa un po' anche il romanzo della tua vita. È vero, infatti sai, quando la gente mi dice ah ma questo non è un manuale, no, non è un manuale, questo è un memoir, ma che parte da una frase, e qui ritorniamo ai Beatles, si vede che oggi doveva essere la cosa che accomunava loro, a John Lennon che diceva la vera vita è quella cosa che succede mentre noi siamo occupati a pianificare altro, ed è quello che è successo a me, cioè io come dire vivevo come tutti noi viviamo, ma nel frattempo succedevano delle cose nella mia vita che non sapevo che avrebbero avuto poi un peso importante. Per questo nella mia vita era importante parlare anche delle relazioni, perché ognuno di noi fondamentalmente è il risultato del posto dei genitori ovviamente che l'hanno messo al mondo, ma del luogo dove ha vissuto, delle relazioni che ha avuto, e tutto questo c'entra nella mia scelta ecologica, c'entra nel mio desiderio di impattare il meno possibile, c'entra nel desiderio di mangiare rispettando tutti gli esseri viventi, cioè come dire tutto questo forma la mia persona, e quindi non potevo prescindere da una cosa o da un'altra, non volevo scrivere un manuale pagina 1 ho staccato il contatore, pagina 25 sono andata in bicicletta. Assolutamente, Paola. Un libro che noi consigliamo, a cui mettiamo il bollino. E che tu, Nicoletta, amerai incredibilmente, non c'è il tempo di approfondire, ma per tutti quelli che come te amano il tango, c'è lo so, una Paola, quello dobbiamo parlarci, i capitoli dedicati al tango. Lasciamoci qui, ma ci ritroveremo. Grazie a Paola Maugeri. Grazie. Siete molto bravi, è una gioia parlare con persone competenti come voi. Grazie. Grazie Paola, ci fai arrossire, ma noi torneremo non rossi, ma riposati, sereni e con tanto piacere di stare con voi domani, dopo il GR delle 11. Alberto torna giovedì. Bye bye.